fischia. Senta fischia. Adesso va bene. E via. Ficcalo. Mamma mia. Adesso mi sono acceso, sta aperto, sta bene. Si è fumato pure ora. Tu già mangiato, eh? Mangio la scuola la luce. Pure. Noi mangiavamo solo la biglia le bocche. Eh? La mezz'ora. La doccia era una mattina. Ai, altro non ce la faccio tutto. Sei pazzo, non mi stai neanche la testa adesso. E lei non ti ha bisogno di niente? Ah, se non mi faccio, non faccio niente. Mi ubriaco di 6 bacilli per i 150 milligrammi. Ti basta l'armamento e la poi ti trova a me. C'è nessuno qua? Oh. Tutti morti sono. Tutti con le orecchie pelose sono. Allora. Oh, mi ha lasciato la ventola. Non sta calando, accendi i sigari. Che cosa? Allora, cattare la tacca, ma accendi i sigari. Cosa fai? Ma c'è dentro casa? Ce l'ha nel trattore con la tacca. Non l'hai mai visto? No. Senti, poi. Ma mi intendi? Ah, che trovo forti. Andale. No, ho acceso l'altro perché se no mi fa interferenza la ventola. Perché il capo ho attaccato l'alimentatore. Ma interferenza vuol dire che la stessa presa. Cosa? Se ti fai interferenza del ventilatore, vuol dire che la stessa presa dovresti attaccato la funzione. Perché c'è il ventilatore. Allora, siccome l'alimentatore è collegato con la radio, quindi attacco l'altro, quello da base, non fa interferenza. Appunto. E poi si è collegato lì. Così è perché, tanto la gamba è insensibile, sta, non ho perso meglio, perché non riesco che poi non fanno la stessa. Sto dicendo che cazzo non riesco più a stare così con questo dolore. Ehi dai, insomma, io ho fatto una nuova domani, visto la piano piano che siamo arrivati. Guarda che, allora, ieri un po' meglio stavo un po' meglio. Oggi mi sono pensato che ho fatto un attimo a ridurre. Ma guarda, io a casa, questa settimana in ferie, ti giuro, stavo da Dio, perché in casa, quando è impegnato lui, io mi mettevo a letto, mi chiedevo, ma adesso se non trovo niente, tu metti in forza, non posso pulsarmi, ma non è in casa. È un casino che adesso sto ritornando per non dire, è quello che fa, mica. Non so, è un sacrificio, è quello che vuoi, però ti do per il basta, grazie. Lo so, per quello che lo voglio fare. Se io spero che funzioni, che vada tutto bene, perché se no faccio prima l'appuntamento, ma posso operare, non posso scattare sempre così, no? Ma io prima devo operare, non so, ma non posso operare, perché sono cardiopatico, naturalmente vado per il laser, capito? Così. E tutto il giornata faccio prima. Sì, all'ase, ma operami, no, all'ase. Perché se lo schiena un po' pensato, se ti sono in su, è per non fare, non è quella cosa. Sì, all'ase, sto dicendo, a Cagliari. Adesso mi andai in treno, che macchina ma quello lì su. E andiamo in treno. Lo spiegato momento, adesso vediamo. Mi auguro che questo ago di Pavia riesce a farlo passare. Se si prende dolore torno a Pavia. Speriamo che si portano via questi dolori, per carità. Penso siamo un anno così. Ma si portano i milioni, mi piace, niente, in vero, ma non proprio a noi di dolore, ma basta che sono. Vedi perché il lavoro è pesante, a parte il lavoro che facevo io, per carità, un lavoro proprio da cazzo da schiavi. Ah, vai, per 2 anni a prendere il motore della Piccinio, 120 kg, non so, da giù, prendere 2, salire le scale, sentire fra la schiena oggi, tra domani, e per 2 anni sono la schiena su Marta, capito? Cosa devo dire io, quei marmi, per occa, quelli grandi, cazzo da 5, di spessore, 150 kg, 160 kg, in 2, in 3, la gamba la sera, cazzo, va la schiena a pizzere. Beh, secco, chi non ha nulla, vuol dire non ha mai fatto un cazzo della vita. Mi ha dato che non ha dei problemi. Io cazzo avevo 15 anni quando ho iniziato a lavorare, è sempre roba pesante, sempre. Lavoro in banca, mio padre non me ne ha cercato, quindi devo arrangiare a fare quello che c'era. Io facevo di tutto da noi, è tutto da là alla testa. Poi hanno riconosciuto i mestieri che aveva ogni persona, dopo 5 anni ci hanno messo elettrico e idrico, e poi anche idrico. E ho imparato pure isso, però cazzo con l'anticidio, questo è pure il del motore, ma se io tipo l'anticidio è un casino da tutto. Forse un bel, alla fine dopo tanti anni, che si per forza. Anche quelli che fanno gli ascensoristi, quel lavoro lì, cazzo, quello lì è un lavoro di merda proprio, e quello lì è proprio un lavoro di merda lo stesso, cazzo, sempre roba tirata, fa, mamma mia. Una volta sono andato a dargli una mano perché non c'era il suo operaio, e quindi la ditta mi ha mandato per dare una mano a lui, ma per carità. Cosa sì? Io, ripeto, sono un po' leggermente scettico su questo valore. Vedo su internet, sembra che è benissimo quello che vuoi. Non lo so, devo provare per crederci. Io mi auguro che vado con tutta la mia convinzione che mi fa. Perché è un sacrificio, nel senso, sacrificio di andare fino a Bono a farci un bel chilometro con la macchina mia, per carità. Lo so che è un sacrificio, lo so. Speriamo che in una seduta si possa passare. Casomai, ma tu quanto ne fai sedute, Tony? Ma noi, se io vedo che è efficace, almeno minimo 3 le faccio, minimo. Sei efficace, sono efficace a quanto più. Almeno 5 tu lì, almeno 5 ne devi fare. Manuel, se io al primo risultato non sento niente, non vedo niente, ho sempre dolori, non vado più, allora mi prenoto con Cagliari, buonanotte. Questo anche io, se vedi che le cose, a parte che te ne accorgerai, se è efficace, che cammino bene tutto, almeno 5 ce le dobbiamo fare, cioè, perché 3 sono pochi. Ma ci pensi? È un corso, mio Emanuele. Cazzo, un'altra di Roma è andato là. Andiamo in treno. Il treno non ce n'è che va a Pilà. Non ce n'è, rimane con Burma. Il Burma ci potrebbe essere. Il Burma non passa lì da cosa, da... Ma... Quelli della... dove ci sono i giardini. No. E poi da pigliare... C'è ancora la stazione di Puma, quei trunche capitellati. Ehi, non è quello. No, è già lì, c'è solo il tram, ci vanno tu. Così, sì. Via, come cacchio si chiama, giù Santa Maria, via Padre Tirano. Sì, lì, via Padre Tirano, dove c'era prima il corso, già ho capito. E da lì prendevo il Puma per andare a Nuoro. Ehi. Però devo guardare su internet se c'è il Puma che era a sorgere orari, capito? Vado lì, riprendo io gli orari, me li faccio dare gli orari, non è quello il problema. Io posso dire anche domani mattina, mi insegnano resta. Se dobbiamo fare 5 sedute andiamo in Puma, a cazzo se vado qua. Appunto, adesso vediamo la prima volta, se va bene noi mangio domani. Se qua va problema, allora sì, ci facciamo... Andiamo in Puma, ci prendiamo un casino in sotto. Pagherai sulle 6-7 euro a biglietto. No, io faccio anche ci capire. Però sempre meglio di punicato 30-40 euro in asta. Ma almeno se guidi tu, ti posi, ti rilassi. Ma io posso fare 10 miliardi di chilometri seduto. L'orone non lancia. pomeriggio mio e soltanto per il fatto che la macchina se ce la fa per tornare perché è finita, capito? Cioè, faccio andare piano piano per questo, però sempre 60 vai tranquillo, vai. Per il sicuro se in casa andiamo in pullman. Ma noi, io non so che era, sono in pullman domani. Ma non domani, oggi andiamo, domani andiamo con la macchina, in casa è... per gli orari provo a chiedere io, per quando ci darà l'appuntamento. No, guardo dopo che su internet vediamo il fuori fumo, capito? Però prima di vedere domani c'è efficace questa cosa qua. Allora dopo si può controllare in fumo. Allora sappiamo domani come è. Mi auguro, vero cuore, perché faccio la Dio Martino per travagliare. Se tu martedì lavori pure. Ecco. Ma noi ti collega in ferie. Però secondo me ci sono, dice beh, non fai usa tu. Ti come la settimana, guarda che ti aiuto a travagliare. Ti rompo le palle. E ti fanno in fare malattia a no, cazzo, non te la faccio. Io malattia sono due vinti, ma non per colpa mia, non mi sapete malattia, ma non è il lavoro. Quando fatto, come ho toccato il coronavirus, e così. Aspetta un attimo, Tony, volevo subito. Eccomi qua. Ma è bassa questa, Tony, la modulazione? Non ho capito. Ha detto, questa qua mi ascolti basso? No, questo è forte. Sì, questo qua è il Galaxy. Che passa di volume, ragazzi. Sì, il Galaxy, questo qua perché c'è il doppio modulatore. La modulazione c'è un po' più forte. Scagliamo le montagne. Scagliamo le montagne? In sé, c'è la polga mia? Appunto. Ma io voglio trovare a cosa, no? A Spano, se lo trovo questo posto, no? A Spano? Ehi, quello là di scientifico che c'era un scientifico di Abona, no? Ah? Ehi, ma così, se lo vedo lo diciamo no, di questo qui. Ehi, se no scegliamo dal cuore direttamente sulle biglietti che le conosco. E ve lo dico, ma ve lo come te. Ehi, ogni paese che vado già, se sono le scuole pronto tutti. Quando un bei busi con mi via, mi vedeva, andava, mi vedeva, ma tu vuole di pensione? No, ne altro anno, calma. E ancora c'è un pizzino. Ah, ci si. Ah, non vuoi. Hai fabbricato la rasura. Ah, cosa c'hai? Stavo mettendo a posto questo cazzo di ventilatore che cazzo si impugna a fare il cavoli giù. Scusa, ma se tu lo metti con questo che sto pensando, con questo, sto pensando, a partire con capo, a dirgli, ma tu sono a posto, non lo so. No, ma questo qui, non sono quei ventilatori da casa. Questi qua sono quelli che usano nei campi della macchina. E cioè 12 volte? E a 12 però l'ho collegata al mercatore, capito? Vabbè, non te ne fa bene. Eh? Beh, non te ne fa. Sì, io ne ho dato però si impuscia. Come fai a portarti? Ma gira. No, perché è tutto l'altro trasandato. E poi due giorni da vinti. Ma già adesso sei fermo. Ho attaccato la spada al letto. E tu vai, diventi a capo. Aspettiamo di dito. E mi arriva la pittura, mi arriva. Ma il camminatore te lo pensano tutto, per dire che sono tutto sicuro. No, siamo la sua donna, Ruto. Ah. Cazzo, figlia, fammi tu mica che dobbiamo travagliare. Cazzo, me ne sono cinque di camari. E vabbè. A volte sei rimasti tu, così. Sì, ja. Dai, mi c'è nelle compitare da te, sì, e ci pago l'affitto. Cos'è tu, mi? Mi c'è nelle compitare da te, ci pago l'affitto. Ah, me ne voglio andare io, no, mi figurati. Ok, ma è stato. Tu, voglio fare per il fatto mio, tu, mi. Te l'ho spiegato l'altra volta. Magari mi ci potevo una casa con 4-5 camere e a partire a patirti così pure, ma mi ha fatto non mi puoi scappare così bene che... E qua ci siamo stati, io ci sono nato qua, Io e Raffaele siamo nati qua. E gli altri, sì, anche Antonello è nato qua. No, Antonello no. Antonello ci aveva messo da 7 anni quando è venuto qui a abitare. Ma quelli che siamo nati qui siamo io e Raffaele. E in pratica ci siamo qui 55 anni. Anche qualcosa in più. E prima Pia dove abitava? Cioè, non avessi lo giro con un esistente. Ma Pia dove abitava a fare da mare? Cesare Vecchio, dove c'è la fontana, Santo Molinari. È una posta di vita? Sì. La verità, è senza porta tua sei rimasto lì. Sì, adesso sono qua, non si può andare su lungo. Questo non è una casa di mano, poi. Ah, non fa una cosa, sono fatto adesso. Adesso vediamo, se vai a fare quella roba lì, te l'ho detto. Intanto, ripeto, i chimi sono tutti volare su. Ma che dà questi soli volare su? Ma non lo so più, ma tu? Vabbè. Sto vivendo tutto a me? Ma fine, che quella lì è la mia già. La tua? Cazzo, da quanti qua? Cos'è fatto tu lì? Tu non me la consigli. Come fai a essere la tua? Nel senso che è già la mia, capito? Non fa parlare qua. Qui? La persona in cui ci abita poi con te. Ah? La persona in cui ci abita poi con te. No, no, no, no, sono da solo. Ma non è una casa. Ia. E posso permettere? 3 camere, ti basta. Se devo con tua attrezzatura? Oh yeah. Capito, lo pago io, non c'è problema. Ma già lo metto io. Ah, fine. Guarda. Io purtroppo sono contento con Francesco, ma che sono l'assista pure pago altro. Però, ripeto, io se riesco a pagare ancora 50, vabbè, capito, non ci paga, quindi neanche in casa lo più. Sì, caso Antonio, a tornare là, mamma mia, è un abisso. È stata 50, e ci vuole più il Valeri. Io ho bisogno che altro vado a fare pensione, mi ha dato campagna, mi ha dato più manna. Allora sì, lei là non ci vuole più fare, ne ha le palle in pieno, interno, per un casino mi sono la coppietta che c'è. Oggi me ne vinco, ma non sai io. Buonasera, come sono di cazzo, scusami, lei ha girato le coglioni. Ma cazzo. Nel senso c'è anche ragione, cazzo per l'ambiente che c'è lì, ui, ma così me l'avevano regalata la casa di per carità. Ma noi, quando sono stato io a abitare, non era così, capito? Io so che non era così, me lo ricordo che non era così, cazzo non venivano i clienti. Era pulito, stato il vecchio, si sia qualche segnata, rossita, si è tranquilla. Ma sto paragone, per un palazzo mio per la Fiorentina, ehi, c'è la coppa, 2 euro, no, porto per tranquillo, cazzo. Ognuno si pulire a buttare una volta per uno, a me è un calcino, cazzo, che ti rosse non pulire, fatti c'è un cane a buttare, io ho un calcino, cazzo. No, no, no, avevo subito venduta, avevo subito venduta e me ne ero andato da lì, per carità, oh. Ma vista che bella che devo fare? È uscita bella, sì, cazzo, è uscita bella, sì. Però qualcosa devo poter lasciare sotto tetto. Sotto tetto, cioè? Dove dormiva prima Iva, sotto tetto che gli avevi fatto. No, che volava tutto, ma c'è più barcone, che era un po' di vento, qua è un casino. Dove la settimana più mette quei fatini sui sergianti. Capogetto, capito? Noi fuori tiro, io che curava, ragazzi. Volava tutto. Come ti volava tutto? Non gliel'avevo fissato. No, cioè, il telaio, lo becci così ai cazzo e basta. È un casino. Se no devi mettersi di conto. Ho sbagliato. Era fatto bene quanto tutto che avevo fatto. Sì, era fatto bene, sì. Quelle le dovevi mettere, come le mettevi, le mettevi sui micone, nei lati, nei quattro angoli e basta. Si vede la camera, non so ma cosa l'ho fatta, cazzo, mi sto poi pensando, ma se la vedi è bellissima, adesso è più asciuta, non sta cosa, non fare mai così in sotto di vicio, cazzo. Lì i muri sono umidi, lì, se l'ho visto come sono. Ma da me non sono più umidi, ma quel lavoro che l'ho fatto io. Si è fatta la camera d'aria. Non ce l'è camera d'aria. Ho fatto cartone crudo, intorno al campo, cemento e sabbia alla bassa, e poi quei lastroni. Grazie. Ci penso per gli anni, la verità. Tutti quei mattoni costano, ma non è. Eppure la camera d'aria è lo stesso, quello che ho fatto. Impianto la luce diversa, la pagare non c'è più. Lo so, il mattone, quei mattoni lì, allora, quei mattoni che li ha messo in cucina, nella parete, quelli lì, lo sai quante facciate facevamo su a Milano con quel materiale lì, e cucchiavano una vacca di Milano. Qui li ha pagato un prezzo, a Milano è un altro prezzo, ne pagavi di più. Guarda, a me mi ha aiutato mia figlia a portare su i pacchi, perché se lei non la facevo, e da una cazzoppiatore di linea, certo che lo pizzava, un po' per volta, non so quanti viaggi ho fatto in macchina a portare la bricca per la contratta a portare a casa. Non parliamo del collante, non ci metto niente, dirà. Cazzo, ma... E chi da di lì, c'è di fare, ma cosa devi fare? No, la tranquilla. E poi anche quel placcaggio che l'ho fatto benissimo, che ci senti, ho portato un giorno a fare in cucina, biancheggiate verde, è un bel lavoro. Quelle sono 10 per 10, te affrega. Per me non mi dico quel lavoro. Ci sto bene, sì, va bene. Andane bene. Ma quello gliel'ho fatto quando ero ancora in casa con lo Zappa io. E infatti mi ha detto, ma... Gli altri sono già un giorno per far finire il quadrino, ha detto no, lo voglio finire, fa. E me l'ha finito, l'ho fatto. Alle 2 mattina ho finito. Sì, via. E me l'ha fatto, non piano. Via. Ce l'ho messo su di Manuè, ce l'ho messo. Vabbè, se vuole cose fatte bene, è normale, bisogna pindirli, Dina. E così, il collante minimo l'avrei pagato sulle 20-25 euro, non sa che tra 15. Tu lo pagato in carica perché era quello speciale, capito? Non era il solito collante per le più strette. Penso che era niente, era appunto, 20-25 euro, perché li usavamo anche noi, quei sacchetti anche per l'esterno. Ero a ti credere che un sacchetto partiva a 6 mattoni, dici mani. Quindi sono 60 per 40 mattoni. Sì, adesso sono cazzo tanto un aggiovato di pilastri con quelle piastrelle. Che ci hanno preso? No, più di tutto, vabbè, ok, sarrato. Non domani ne va, zicca, mi sembra che l'ha preso, lo sai. Cazzo. Ma lui è fasciatino, cazzo mattone su, questo parlo di fino a me. Quelle lì vanno a fare un'offesa, sembra calcestruzzo sempre, già lo so sì. Già la piano, però guarda che ho individuato proprio il mattone, fatto con la paletta con gli amanti, tagliato per tutto giusto, cazzo per il quadro. Tutte le prese fatte bene, cioè hai visto che mi sono fatto una porta. Mi gioco fin da davvero, guarda. Cazzo, se lo faccio un fabbricamuro, non lo faccio così, beh. Non so con fabbricamuro, vabbè. Sarà già a fare un po' di tutto. Quando la persona l'ha detto io, ma era già a fare un po' di tutto, insomma, se tu dici che ti arrangi a fare un po' di tutto, vuol dire non c'è a fare niente. Fai da come ti dici, non c'è. E appunto, la gente che fa vita, non si fa proprio un tubo. Uno, una libera, il geometra, ma io ti sto parlando, ero un ragazzino ancora, ma che cazzo di 18 anni. E lavoravamo qui su, dove c'era... Ti ricordi dove c'era quel negozio che vendeva i Kingwood? Dove c'è? C'era un negozio, ce n'era solo una sassa di negozio, che vendeva solo i Kingwood. Radio Kingwood, che a fianco c'è, che adesso mi sembra che hanno fatto un coso di chitarra, un negozio di chitarre. Ma stai dicendo tu da Paolotto, lo stesso di Roberto? Sì, da Paolotto. E stavo lavorando lì vicino. In pratica c'era questo muratore, dice che era un muratore, lavorava con noi, e fa il giovane, a me domani devi fare questo pavimento qua. Cazzo, Dio mio, come ha fatto questo pavimento? Ha fatto questo pavimento tutto il cazzo a saltelli. Ed era proprio da uno. Io ho fatto un pavimento, a mio nipote, però solo se è tutto bello veramente. Pavimento poi gliel'ho fatto nel bagno, e gli ho fatto anche il rivestimento della doccia, devo fare il placcaggio, ho detto mi piace, non ve la posso più, è giusto dove viene il disco, dove il cazzo mi pare, un mese e mezzo di malattia, odori! Anche lo sempre incinato. Sì, lo so, e io lo stesso quando faccio quel lavoro lì, posatori di marmo, pavimenti, cose, eravamo sempre ginocchiati. E da lì che mi hanno preso questo problema qua della schiena. Guarda, è brutto, ma non è brutto, non ha come dire su, faccio domani. Ha brutto dolore del braccio, troppo camminavo tranquillo, adesso non si fa di camminare, la cosa è fatta. No, non ti fa camminare, non ti fa camminare, questo problema qua, quando ti viene, Dio mio, povero, povero Mecca, io mi auguro che a me che gli altri non sapranno cosa vuol dire avere questi dolori, se non l'hanno mai avuto. E poi ci devi perdere un po' di peso, anche il peso. Ma se mi dici che più grasso hai me, cazzo non va in un sabbo. Cazzo di un cliente che va 160 kg, gente che conosco pesa 160 kg. Eppure il cazzo di vedere il cazzo camminando, prendi, boh. E a chi dice non hai mai fatto un cazzo nella vita? Noi ce la troveremo mentre noi, io penso che non fare via da nulla, no? Poi è già più un baculino. Il problema che è, il problema nostro è anche la cartilagine, è consumata anche per quello. Come frega, il dolore allucinante ti arriva. Certo, forse che tu hai fatto per la pure. Integratori. Però Barovetta, sapendo la tua un po', ma sei peggio di prima. Appunto. Quindi è una fregatura. Già ne piglio più di roba che dici. Ma dov'è? Che avanti. Pecca, ci mancherebbe, c'è un mezzo che sto chiamando. Oh, mia popostini. Ciao, Antonio. Ciao. Cazzo, ma è sotto come la palla, guarda. Beh, Pompo, è sotto come la palla. Cazzo, tu non mi arrivi in fondo a scala, no? Beh, già lo so, ma... ti ho chiamato, cinque volte l'ho chiamato, nulla, no? Senti, e tu non mi fornito che sono da palla. Io sono da palla, io ho la televisione accesa, ma non è che è una bomba, non lascia cadere lo svite che ci riprende lui. Che me sono accorto infatti. Pomposchi. Beh, come va? Tutto a posto, sì. Lascia stare, tutto a posto. Tutto a posto, niente in ordine. Tony, tutto a posto, sì. Ma tutto a posto. Domattina stiamo partendo per Bono, per farci l'ago futuro alla Pichiriola. Quello fai ciucucciuto, domani, non ti preoccupare. Guarda, Tony, se mi passa, come arriva a stare, se mi pongo a premissa. E come mai? Con quindi le orecchie, questi lì, quali spillori? E tu Antonio, cosa vi racconti? Niente, sto a casa, adesso. Sono uscito, in realtà, da stamattina, quando in giro, perché non ce la facevo più, in realtà. Dentro a casa, buttato, mamma mia, sta avendo un risalimento nervoso. Perché? Perché non riesci, scusa, perché? Ma ce la fai tu, stai una settimana dentro a casa, buttato e ti lasci lì, manco 5 minuti, fai solamente la spesa e buco. E poi rientri indietro, non sarà. Ma scusa, che impedisce di uscire, farti un giro come si deve e rientrare quando vuoi tu. Ma penso che nessuno ti blocca su tutta la pistola, no? Sì, a me sì, a me sì. Una volta per tutte, io ho bisogno di uscire, non sono in galera di domiciliare, punto. Ti va bene così, o esci con me o rimani in casa. Purtroppo è così, hai capito. Sto male, ho medico in piedi, eccetera, eccetera, quindi il discorso è quello, hai capito. Allora fa una cosa, rimanda la prima volta fare il tuo, come dove si chiama? A un certo punto me l'ho presa, me la devo tenere. Cosa devo fare? Ma mica puoi, sto qui e tu. Scusa, cazzo non si, mica sono condannato a rimanere nel domiciliare, mi ha sorpensato. Ma devi diventare ma come tu, non lo so più io. Io dico questo, io mi ci seguo la mia vita, quindi non mi devo rovinare, cazzamare per te, no? Infatti è proprio quello. Se esco, per dire mezz'ora, cosa del genere, fa la spesa, tac, mi telefona. Dove sei? Sta arrivando. È una cosa allucinante qua. Ma è probabile che il telefono lo esci? No, non lo faccio più che altro, guarda. Perché a volte magari potrebbe anche cadere, non so, io lo sai anche tu. Tutto per quello. C'ho quella cosa in testa, capito? Sì, ha voluto operare il pompogno, per carità, non si arriva ai commentini, a giura. Non che ha voluto pedalare, ha voluto la bicicletta, pedala. La vuoi bene comunica, cazzo. Ma qualcuno a me che non ho preso la fuoco, qua. Sai come me, da solo, senza problemi, senza nulla. Attenti, mi uscito la costa. Io stavo dicendo a Manuel, stavo bene comunica adesso, a un certo punto. Potevo stare con lei, ma fa culo a me, andavo a far culo. La famiglia, quello che era, perché era contraria. E mi sarei messo tranquillo, guarda. Lavoro e cose del genere. Allora sì che c'era, il lavoro c'era. Ma fa culo a me, con lei stavi bene al 100%. Già lo grido. Stavi cosa Monica a Tony? È carina. Poi mi dava la macchina con lui. Padre si chiamava, c'aveva un negozio di sistemava le moto, zappe pure, e moto ciao, sì, queste cose qua. Sì, sapore che lo fa mettere qui. Aguaro. Ah, ecco, capito chi è? Sì, capito già qua. Yeah. E che fino ho fatto? Allora avevo visto una volta all'ufficio di collocamento e stavo facendo una domanda di lavoro perché la fermo la lavoro. Ma lui non ha fatto qualcosa guarda il gelo? Sì, anche quello ha fatto. E beh, già finito. Non è che l'avremmo. Io ho visto un tempo fa, quando l'ho fatto la domanda, ci siamo provati in giornale, col sindaco, bla bla bla, tutto. E quello era un bel posto, però non so se era fisso, mi sembra che era 6 mesi. Ma sempre lì a cosa, prima della valorizzazione? Sì, sempre lì, dove ci sono le 2 palle di cemento. Ma c'è sempre quella foglia, sì? Antonello devi dire. Antonello, tu c'è una nuova Sardegna. No, non c'è più quella moglie, da un bel tempo. E anche la figlia con la mamma o col padre? Figlia è, vabbè, è sempre con figlia, con coso, vabbè, con messo sposo più che altro, là, quello che è. C'è la figlia, ci ha fatto la compagna, no? La figlia, ti compagna non neanche, perlomeno adesso questo lo so, ma prima di essere sposata già ce l'aveva i compagni, eravamo io, Ginko, poi c'era gente. No, io non faccio, non faccio. Volevo capire se quando sono separati, che la figlia andrà a abitare con la mamma o col padre? Col padre. Qui, col padre. Sono di fronte, ho una palazzina, Tommy. Sono due villette, Tommy. Cioè, due case, secondo me che sono due villette. Due case, facciamo così. Sono due case. Lei da una parte e due dall'altra. A 20 metri uno dall'altro, so. E Baracchino non era più, no? Baracchino ce l'ha il padre. Lei, Baracchino non ne ho. Cioè, no. Quanto sembra, non ne frega niente, a quanto sembra. Per il momento, questo non lo so. Comunque c'era un CP che piagava, comunque non so se ce l'ha provata pure. Non voglio fare i nomi, ma comunque, forse Manuel lo sa. Manuel, centro progetti in ascolto, aspetta, te lo dico domani. Tanto è vero che una volta con la mia 50, mia figlia, siamo andati con Jaguaro e Jaguara, e la figlia siamo andati un po' alto, verso soldato, verso dove eravamo, si vedeva Alghero, si vedeva tutto. Avevo un po' di fresco d'estate. Ma Jaguaro mi ha detto, ma cosa mi dice lui se di tizio? Che tipo è? È un tipo bel piacchino, quindi non guarda la donna, né sposato né niente, occhio. E infatti, grazie il personaggio, e ci parlava spesso con lei, che forse l'ha comprata. Sì, ho capito, sì, capito chi è. Non so se sono ancora insieme con questo po'. Non lo so, di questo non lo so. Bisogna andare, tu lo sai. Poi io, non so niente io. Io proprio non ho. No, fa vedere pure la finanza pure, ma entrava perché lui è sposato, lei è sposata per rompere le palle, a rovinare le famiglie. Il marito suo ha detto la vecchia ruggato. A parlare sicuramente l'avevo pubblicato. Prima l'aveva fatto fare lo scandalo con la moglie sua e così lo lasciava rimanere in carriera, poi l'aveva pure il punto. E rimane il punto in carriera pure. E che già qua era la battaglia del fotografo. Sì, era bravo come persona. Addirittura aveva preso anche ad affare a lavorare con lui. Niente, quello per si vita non ho più visto mentre tutto. E tu qualche divisa a farlo andiamo a trovarli. Perché no? Andiamo. Sì, andiamo a trovarli. A vedere come sta. Sì. E lui. E non avrei più lì, mi pare. Ma io dico sempre lì abita. La figlia abita di fronte. No. Sì, ma Antonello non ci abita più lì. Sì, che abita lì, non si preoccupare. Se lo sto dicendo io. Allora sono tutti lì. Lui in pratica nell'appartamento dove abitavamo prima tutta la famiglia, poi invece la figlia è andata in quella palazzina, capito? All'ultimo piano, ultimo piano. Che sei piani sono i piani sono quella casa che c'è, quella palazzina vecchia, la vecchia. Invece lui è in pratica per terra, che altro, capito? Antonè, sono mandato, si vede la casa sua anche sulla 131. Bene, là? Che la casa del sua si vede anche dalla 131. Sì, esatto, si vede. Bravo, sì. Ehi, già lo so. Tu basta niente, dalle due bombate, quei due palle di cemento, sempre quel cavolo di corte, sulla sinistra è lui. Ah, via Tolino. Ehi, appena entri da lì, sulla sinistra, con la palazzina che vedi alta. Comunque già se ne fa trovare, per ricordarti che stavi qua, fai sapere come sono le corse. Comunque lì si chiama Limobbi, si chiama, già lo sai, ci sono due bombe disegnate. No, dalle bombe non puoi ricordare proprio. Due bocce di cemento, sono due bombe, là. Due pare di cannone. Sì, un po' cazzo. E lì ci abiterà anche la figlia. Avanti, fisco che vuole entrare. Chi è? Ah, vuoi entrare, sì o no? Parito. Comunque va bene, come mai non sono più entrato tu? Perché c'è Simona che sta male, no? Non sta bene, capito? Solo se è entrato, lo sai che a me di quello che dicono non mi piace un cazzo. Quindi, sta male Simona, che altro, capito? Quindi a un certo punto devo stare a casa lì, c'è troppo caldo, devo stare a casa da... non sto facendo neanche più io, figurati tu, figurati tu. Sono uscito, oh Jimmy, oh Danico sono andato, chiamate Danico, dalle 11 del mattino, fino alla 1 quasi, la verità, ma anche prima la verità. Vabbè, sì, ma non ho capito all'inizio cosa hai detto, ciò che dicono i gatti, ma non hai capito, cioè, cosa dicono i gatti? Per quello che è successo l'altra volta, capito? Capito? Tutto lì, ma no, di quello non ne frega niente, lo sai, sono una persona che ha le spalle larghe, quindi... A me le cose non mi interessa niente, mi interessa solamente io, Simona, gli amici che mi sono rimasti e basta, tutto lì. Non interessa nient'altro. Comunque sia, vabbè, aspetto il 27, almeno voglio andare almeno una volta in pizzeria. Divertirmi, come se facciamo la volta, guarda. Se ne voglia, tu, tu e anche... non ti posso dire. Gli altri, si organizza e non c'è problema. Aspettiamo il 27, 27. Così almeno mi diventa un pochettino, almeno un'ora e mezza andiamo di qua in questo locale, vabbè, a parte zanzare, già lo sai che tu fai. Ah, Antonè, anziché andare in pizzeria e cose, qualche giorno deve venire qua in campagna, c'è che Emanuele, poi già ci sono le persone giuste, non preoccuparti, già ne parliamo in verticale. Ci facciamo una bella rostizza, cioè, da poco, quando è sabato erano qua, Emanuele, Claudio, siamo stati così bene, abbiamo meglio mangiato e ce lo divertiamo. Mi ha fatto ripetere che il papà uso di Emanuele, si è fatto dei tre vendibiti, me l'ha fatto tre vendibiti, ha già mai fatto il capo di lampadina, gatto. Cosa è solito Emanuele? Ah, stai bene, non prendevano, se me lo più rompi, boh, avevo il capo, quindi lo fa ripetere. Cazzo Antonè, li vuole baci, ah sì, non ti tagliamo, per forza li devo fare a tre, e poi non ce li ha a zero, sta bene perché vanno bene, a misura. Ce lo dice lui. Ah, ecco perché, adesso ho capito, ho capito. E poi le ha fatto anche Claudio, non c'è più Claudio, ha fatto anche il video, l'ho fatto bene. E quindi, è fatta a tutti i tipi, di là. Comunque, Emanuele, a parte qui, è stato bene quel giorno. Ci siamo divertiti, là. Una giornata calda, però già ci siamo divertiti. Sì, ma in casa c'era fresco però, Sì, in casa sì. Cazzo, ci volano da lato fuoco, via. Quindi, Emanuele, non è con me. Ci organizziamo, è così, per venire qua, proprio stamattina, fino a sera, poi c'è una bella rossita, ecco di ciò che è. E vabbè, non c'è problema, vediamo qual è il problema. Per me, io sono libero, quando volete voi. Dipende da voi, il discorso è quello, lo sai, non da me. Vabbè, a parte Simona, il discorso è... lei è venuto in questo tweet e quindi devo stare attaccata per forza a quello suo, capito? Faccio questa cosa e glielo tolgo, questo video glielo tolgo, che non va bene. A un certo punto devo stare in galera io, no? Sono mio malo io, la pelle rossa era meglio, lo sai. Non preoccuparti. È che adesso siamo tutti e due colleghi nel disco, vado lì, Emanuele, per domani a Bono per farci questo, a questo punto, chi calzasse non vede. 5 di più, ma stagione fa bisogna da poca. Allora vabbè, faccio ci riprendere un pochettino. E poi va, ci divertiamo. Io posso dire una cosa a voce alta, io sono rinato, la verità. Sono rinato nel senso amicizia selezionata. Vabbè, parlare di fiducia comunque. Poche persone, ma buone, non ti dico altro. Sì, già non so, non ti preoccupare, quindi tranquillo. Anch'io ho selezionato tutto e quindi le cose sono cambiate. Non ci sono più i casi di prima e quindi adesso sono tranquillo, capito? Se esco, non c'è più casino di prima, eccetera, eccetera, i casini di prima, no? Tutti eliminati sono stati, capito? Purtroppo posso dirci una cosa, certe persone non sanno cosa vuol dire la vera amicizia, punto. Quindi spesso fino a un certo punto alla fine tirami le palle e chiudo il battito. E io ho fatto così. Se sono persone nascoste come era proprio un bel benigno, perché io cammino affacciato, non devo dare niente a nessuno. Ho anche dato troppo, basta. Io mi rompo le palle ma ciappa, non dico altro. Le amicizie me le vedo io con chiunque. E il gioco troppo bene, avanti Emanuele. Ma hai ragione, perché così, hai ragione. Una voce, due voci, la voce quando ti intendi di lato parlo culo, non va bene neanche. Ecco, va bene tutto, ma non apriamo il parlo culo culo. Vai Antonio. Sì, ma la cosa luce fa quello, io lo sai anche tu. Quindi io ho dato anche il culo a tutti, anche il culo, sono stato anche a fare lavoro gratis da tutti, quindi cosa ne ho avuto? Casini e basta, non ho avuto altro. Cosa devo fare? Boh. A un certo punto aiuta uno, aiuta l'altro. Non vale che non già mi conosci, è tantino, quindi non c'è bisogno di dica niente. Sono anche troppo bravo, guarda, forse perché sono troppo bravo, sono anche scemo e tutto, guarda. Mi metto in mezzo ai casini per niente, quando non c'è più niente. Il discorso è quello. Antone, cazzo, scuro a tutti. Ma non vedo ci fanno, non si vede. Non ho capito. Hai detto, ho dato il culo a tutti. Ma non ce l'hai così grande, non si vede. vabbè, già mi capito. La battuta dai. Sei comunque tranquillo, Antone, non c'è problema. Io ti ripeto, gli amici, io vedo come si comporta. Frequento oggi, domani, dopo domani. E vediamo se cambia, se c'è una cosa, ha peggiorato, allora va fatto. Sì, vero. E vabbè, e che ci vuoi fare? Io sicuro non lo do, certo. Cosa posso fare? Perché io ci tengo, mi piace la bicicletta. E forse sono troppo bravo, capito? E qualcuno se l'ha approfittato, cioè se ne stava approfittando fino a questo punto, poi tira nelle palle la famiglia. Allora. E va bene, avanti Manuel. Sì, va bene, ma avanti così, lasciamo perdere, va. Parliamo di altre cose che è meglio. Comunque Antone, devi sbadarti un po', non stare in casa, perché sennò invece di curare tu a loro, poi sono loro che devono curare a te. Lo so, purtroppo non posso farci niente, tu già lo sai, a un certo punto, quindi sono tutto il giorno così, ma io gioco, esco, faccio la spesa, mi telefono ogni 5 minuti, mi fa il gatto, voglio dire, non mi dà più, ma se mi hai capito, ogni 10 minuti al telefono, che mi chiama, ma ti parla normale, ma cosa c'è, dove sei, quando vieni, mamma mia, ti vengono le convulsioni. minuti vengono qua. Ecco, sì, già è buttato, aspettiamo. Dopo l'incapo una volta battuti, io sto andando a farmi una rottita, torno con amici, sto andando poi a respirare, sta a Camponosina, notte a tre, a te ti racconto invece il pezzo più bello di sabato. Con Manuela abbiamo preso, c'è dietro il vino, bello abbrusco, tanto bello, eh? Allora, tra l'ultima che si chiamava Vino Troia, che ha detto no, vediamo questa Troia, perché ha sbagliato come si fa. E in realtà, insomma, ci siamo sbagliati, perché con Vino Troia faceva schifo veramente. Vediamo, si strinse, poi frigo, prima di mangiare, si era tracannato, diciamo, tracannato giustamente, perché, per il perché, e l'ambusco, perché era bello dolce, frizzantino, bello fresco. Quando è venuto a voler assaggiare non veniva più, se ne era scolata la bottiglia, ragazzi. E poi la buttare l'altra bottiglia e faceva schifo, allora abbiamo deciso che la possiamo buttare, prendiamo solo il lambrusco. E adesso era buona birra, ragazzi. Un cicchi sono riuscito a assaggiarlo, Il lambrusco è buono, sì, certo se è buono il lambrusco. Il fatto che è pesante poi dopo, quando comincia a berne una bottiglia, due, dopodiché fa effetto, perché lo sai. È come... come ti posso dire? Aspetta, non mi viene in mente il nome. C'è un... vabbè, ti avrei capito comunque sia. Fa effetto lento, ma però quando fa effetto, cazzo, voglio ti mata, cazzo, mamma mia. Antonio, se uno mangia come si deve, anche se rimetti mezza o un'epoca, non è parte lunga, scusa, mica devi guidare. Io sono a segno, quindi qualche goccia non dovrei farla, ma con la stanza che ho, anche se bevo mezzo bicchiere, a me va bene lo stesso, non c'è problema, capito? E mangiando, lo partisco, non c'è problema. Però sicuramente chi piace lo può bene, che non guida va bene, capito? Infatti anche l'altro l'ho portato io qua, per la macchina mia. Avanti Manuel. Guarda, io non è che mi posso, io quel bracchetto lì, cosa c'ha di gradi? C'avrà 7 gradi e mezzo, non di più, però mangiando e bevendo un 6 bottiglie me ne bevo anche tranquillo, ma 6 bottiglie però in compagnia. Compagnia, però come eravamo io, Torino e Claudio, ce le beviamo tranquillamente se bottiglie, ma non è che ti dà, che ti ubriaca con quelle se bottiglie, perlomeno a me non mi fa tenuta, poi non so agli altri che effetto li fa. Vai Antonio. Siamo un po' ramazzotti perché altro, perché quello bicchiere, 2, 3, 4, vanno bello, perché quando cominci a passare 5, 6, 7 si è morto, capito? Tutto lì. No, io con Claudio, la verità, siamo andati un giorno a installare l'antenna e mi sono divertito, ho mangiato, quello che è, e non mi sono beccato per niente, la verità. Non ho bevuto vino, quello che era, era buono, lì a cosa, perché ci avevo invitato a installare questa antenna qui, mi sono andata io, dopo pranzo, quindi figurati tu, e quindi non mi sono beccato un tubo, lo sai che io quando devo fare un lavoro, roba non bevo per niente, assolutamente. Comunque, l'ambrusco, quello lì era buono, avevo trovato una bottiglia giusta che era buonissimo. Io ho assaggiato anche un bracchetto che è Meirano, uno dei migliori vini, diciamo, che ho conosciuto, è un tipo l'ambrusco, ma non si può, non l'ho più trovato con Meirano, se lo trovo se lo trovo. Niente, quella brusco che abbiamo indovinato, comprarlo lì, ma abbiamo fatto la foto, non è perché lo ricopriamo, è troppo buono, vero Manuel? Sì, la brusco, no, c'è scritto, dalle Puglia, fatto dalla Puglia. Amabile. Io o cosa? Io. Ah? Hai preso l'aerospeed? Ah, com'è? Non l'ha preso l'aerospeed, l'aveva preso alla Copec. Ah, ok, da. Ok, da. Quindi alla Copec, che buono quello, e a voi, a voi. Guarda, Tony, posso mandare anche la foto alla pubblica. Ce l'ha solo per 2-3-8. E poi, anche Manuel, forse ce l'avevi fatta la foto. Cristian Baresi ce la dovrei avere anche io. Siamo Franciarretta, ce la dovrei avere anche io. Pesce a vedere. Pesce a vedere. No, non ce l'ho più. Perché io le cancello. No, io non cancello nulla. E mi sa che domani qualche prebuttino, se passo presto le prendo, me la metto in frigo così. A parte lì c'è viene anche lui. Vai su un piede, se non posso dire, però non c'è lui. Ah, già c'è, Lambrusco, di Modena è Doc. Sì, Lambrusco di Modena Doc. Sì, questo qui è buono. E pure l'ho preso, ho messo un po' di frizze prima, cioè, si parava che, guarda, io un cc, ma un sotto, proprio sotto, perché no. C'è visto un frizzo, hai visto, la carta era buona. Allora, ci va bene, ci va bene. E allora? Infatti Emanuele ha detto no, la prossima volta vediamo un po' di cazzo e non ce ne fa più. Cazzo, ah no, ci siamo in frigo, in ghiacciaia ci siamo, fa mezz'ora, un'ora, a un'ora si è fresco. Comunque posso dirti una cosa Emanuele, stasera anche quando l'ha fatto quelle di carne e cavallo, come la stamattina la cosita, cazzo il burro, sai come il burro? Devo dire a Gianni Macellaio, grazie mille, veramente buone. Sì, ma le prendo anche io lì, qua giù dove c'è la posta, e sono tenere e tenere, cazzo barini rinzuri barini, e sono grandi pure. No, però c'è un bel pezzo grande, sarà cazzo un chilo e mezzo, non è il gioco, boh. No, solo per la fette, era 50 da fatta, a 20, e non c'è questa canna, no. Se cioè, poi devo un macchino, la mattetta, non faccio, fatemelo però incontrare. E ma un bel pezzo e niente, fatta a pezzine, era fatta a 50, poi l'ha fatto la mattina anche per tema, e lui lo rifà, si è attrezzato nel centrico, questa sera l'ho fatta a rosso, cazzo che buone, mamma mia, veramente cazzo. A rosso sono buone, sì, cazzo, a rosso sono più buone, sì. Poi la magna che ha fatto oggi con le confette, lo giuro, oggi buono, ma lui ha fatto le mezze a pezzi, mamma mia. Cazzo diciamo, a niente mezze penne, sì, che non fa. No, questo non so mezze penne, è già pronto un pacco, ecco le mezze penne. No, questo penne come quello lì. Mezze penne, figlio quanto un pacco, tre pacchi. Sono sempre penne, ah, so, sempre penne rigate, so. Se non sono mezze, sono i trivi, sempre penne, so. Cosa vuoi, sotto di lui, spaghetti, quello tipo non c'è problema, ragazzi. Vabbè, come c'è, che è molto alla 50 qua del vita. Ah, Antonelluschi, prendi. Che dove vedo l'acqua. Ah, di cazzo, non manco per sapere se stava vedendo l'acqua. Stanno usando il video baracchino, ti avrei visto. Ero non si vi rilanciava e stava vedendo l'acqua. Ma secondo me non abbiamo il video baracchino. E comunque, bisogna che ti mettiamo nella retta via, Antonelli. Veniamo di nuovo, ti prendiamo e ti portiamo qua. Qual è il problema? Non c'è problema. Sto bevendo acqua, un altro pezzo. La diarrea mi fa cazzo, allucinante. Stasera poi mi sono preso un paio di... cioè, 3-4 lattine, la verità, la verità. E lo spì, e lo spì. Le bevute. Dopo due giorni, figurati tu. Quando bevo acqua di questa di merda, cazzo, che sta bevendo lo spì, mi viene tipo di setteria, si chiama Lewis, si chiama, cazzo, a diarrea ti fa, è una cosa allucinante, cazzo. Ma a me, anche io ho fatto quella per 12 punti dietro, ma direi non si è mai fatto, la verità. Allora a me, anche a simulare addirittura, la diarrea, figurati tu, è una cosa strana, quindi adesso cambio acqua, cambio, mi ho pigliato l'altro giorno 4 pacchi, ma adesso cambio acqua, perché non è possibile, quello dovrebbe essere di senteria, perché altro, quando si ha diarrea così, è una cosa un po' strana. No, è già più effetto, ho pigliato qualcosa, no? Allora io prendo quella bottiglietta, io prendo anche l'altro tipo che a meno cosa, come si chiama, non mi ricordo, io cambio ogni tanto.